Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. L'amore non fa molte domande, perché se cominciamo a pensare, allora iniziamo ad avere paura. È una paura inspiegabile. E non serve a niente tentare di esprimerla a parole. Forse la paura di essere disprezzati, di non essere accettati, di rompere l'incantesimo. Sembra ridicolo, ma è così. Perciò non si fanno domande, si agisce. Tratto da una roba bella bellissima di Paulo Coelho. Coelho che scrive: sulla sponda del fiume Pedra mi sono seduta e ho pianto. Non segue una linea ben precisa, segue un cammino. E mica è sempre uguale. Camino, camino, dal mio giardino. percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno alle 18. Frequenza. Benevolenza. M2O. Oh. Eh sì. Eh sì. Il cammino. Il cammino. Il cammino di Gigi D'Agostino. I drive around all day long, I listen to radio songs, I'm taking heart to become what you want for your life. I stop and talk to you, a little help from the moon, only few words I will say, God help me, I have to pray. Your eyes are deep in my heart, I stumble over your smile, I'm taking heart to become what you want. Dov'è il vocalist? Sono qui. Lavora. Ma sono un po' stanco. Niente scusa! Gigi, domani posso tornare? No, ecco. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. A little help from the moon, only few words I will say, God help me, I have to pray. I hope you're going to stay, we'll be together someday, I'm taking heart to become what you want. Gigi D'Agostino. Oh. Gigi. Gigi. Eh? Ecco qua, va. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. Ho aperto la finestra. Ho aperto la finestra e il mio cuore. Il sole ha inondato la camera e l'amore ha pervaso la mia anima. Tratto da Una roba bella di Paulo Coelho. Paolo, quello che scrive. Mi piace guardarti giocare, mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi.

Stoppa sta musica, metto un bel violontone. Tipo? Bella Gigi. Passo passo, tasso, passo passo, tasso passo. Si va lenti, ma potenti. Si va lenti, ma potenti. Vocalist. Musica, musica, musica della musica, musica, musica della musica, sei in possesso, non ti senti più lo stesso, l'uomo suono sta creando, aiutalo danzando. Che dici? Fai l'annuncio, lavora. Se volete mandare le vostre dediche, il numero di SMS è il numero di SMS è 333 64 67 662. Fermiamo un attimo per prendere fiato. Il nostro cammino non è terminato. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Musica! Musica! Gigi D'Agostino! Gigi D'Agostino! Musica che unisce! Gigi D'Agostino! Musica! Musica! Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Chillin' with my boys and I'm on the air. On the radio rockin' like I just don't care. Cause when it comes down to it, we gon' make it happen. Check it out because you know, check it out, I thought it rappin'. Chillin' with my boys and I'm on the air. On the radio rockin' like I just don't care. Cause when it comes down to it, we gon' make it happen. Check it out because you know, check it out, I thought it rappin'. Chillin' with my boys and I'm on the air. On the radio, rocking like I just don't care. Cause when it comes down to it, we gon' make it happen. Check it out, because you know, check it out, I started rapping. Chillin' with my boys and I'm on the air. On the radio, rocking like I just don't care. Cause when it comes down to it, we gon' make it happen. Check it out, because you know, check it out, I started rapping. Mi piace suonare un tormento contento e che il movimento sia lento violento. Lento violento. Lento violento. Gigi D'Agostino è lento. È lento. Violento. E viceversa. Agli altri il palo è la traversa. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino sulla testa. Negre, lascia bene. In Sicilia i femmine sono come l'ubare. M2O. Musica allo stato puro. Arrivate il folclorista, Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Dai un po'. Me la mixata, va. Ma chi lo ha detto che per forza A coso? Tutto a posto. D'Agostino, musica che pesta, che unisce, che pesta, che unisce. Scusate se vi ammacco il pitone. Sì, vabbè. Questa settimana. Ce la puoi fare? Sabato sera. Sì. Dai, che famo notti. Vabbè, allora, possiamo dire? Sì. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello in Spagna. Cioè, oh. Sabato 23 settembre 2006. Discoteca Big Ben Disco. Golmes. Leida. Spagna. Non giochiamo. Ci vediamo lì. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Benevolenza. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. sente. Poi più lenta. M2O. Passi del cammino sotto Gigi D'Agostino. E ascoltando del cammino balla Gigi D'Agostino. Questi passi d'Agostino sono Gigi del cammino. Passi, passi del cammino, tu sei Gigi, tu bambino. Questi passi del cammino sono Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Ma che sentieri percorriamo tutti insieme ogni giorno alle 18. Che mondo è? Che storia è? cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Per questo brano. Musica e regista, questo è Gigi, il folclorista. Gigi D'Agostino. Oh, è vita, suono, movimento. Lui è Gigi, il tuo tormento. Vabbè. Non sono eterne quando procediamo verso quello che abbiamo sempre desiderato. Tratto da Monte 5. Paolo, quello che scrive. Il cammino di Gigi D'Agostino. Yeah.